Questa casa non è un albergo. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci come vuoi. Buongiorno e benvenuti alla prima puntata dell'anno di Questa casa non è un albergo. Ieri abbiamo festeggiato l'inizio del 2010 a Essere Benessere e oggi lo faccio qui con voi e con il mio inquilino Alberto Pellai. Alberto! Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti, buon anno! Ma siamo sempre insieme noi! Abbiamo proprio fatto le feste insieme. Allora Alberto, oggi direi per l'occasione una puntata speciale per andare un po' indietro nel tempo e fare un po' un bilancio dei temi che abbiamo trattato nel corso del 2009 che si è appena concluso. E prendiamo magari qualche spunto, una puntata che ti è particolarmente piaciuta. Vuoi scegliere? Ah, guarda, io ne ho una delle mie preferite dell'anno, del 2009, è stata quella in cui abbiamo preso la letteratura proprio come disciplina e l'abbiamo fatta diventare uno spunto, una strategia per stare meglio a scuola tutti insieme e per trasformare la scuola da scuola di materie e discipline a vera e propria scuola di vita. E tra l'altro proprio la letteratura l'abbiamo utilizzata prendendo spunto, no, da un libro e anche dai fatti che sono accaduti come antidoto, Alberto, ad un tema che a te è molto caro e su cui hai scritto molto, che è il bullismo. A questo proposito, allora facciamo ascoltare un breve estratto dal libro Cantami OVJ, una pagina che ci introduce alla puntata. Andiamo! Cosa c'entrano le canzoni, i film, i fumetti con la letteratura? C'entrano e come. Canzoni, film, fumetti, romanzi, racconti, videogiochi, eccetera, hanno una cosa in comune. Raccontano storie. E a me le storie fanno capire il mondo. Il mio cuore. Con tutto quello che ci sta in mezzo. Quando leggo, vedo o ascolto una storia, il tempo passa in un lampo. E quando il tempo passa in un lampo, vuol dire che mi sto divertendo. E che la vita, l'unica storia della quale sono protagonista, mi sta piacendo un bel po'. E io, delle cose che mi piacciono, voglio sapere l'origine. Se conosco l'origine delle storie, non rimarrò mai senza. Anche senza libri, DVD o MP3, potrò comunque raccontarmene una io, se conosco le parole magiche. Andare all'origine della magia. Ecco quello che spera questo libro. Allora, in linea con noi c'è l'autore di Cantami OVJ, il sottotitolo è Lezioni parecchio alternative d'italiano. È stato anche soprannominato il professore Rap. Allora, do subito il benvenuto a Matteo De Benedittis. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti a voi gli ascoltatori. Allora, vogliamo anche noi sapere tutto di lei. Dunque, allora, la mia carriera incomincia quando mio papà, prima di addormentarci, raccontava a me e a mio fratello le favole, e quello lì è stato il punto di partenza del mio amore per la letteratura. Fino a verso i 10 anni, tutte le sere prima di dormire ci accompagnava nel sonno, e pian pianino questi semini che seminava giorno per giorno sono cresciuti. Lui faceva il professore di lettere, anch'io ad un certo punto, in quinta elementare per la precisione, ho deciso che avrei fatto anch'io il professore di lettere, e quando mi sono trovato effettivamente dall'altra parte della cattedra, dopo aver studiato lettere a Bologna eccetera, mi sono chiesto appunto che cosa piacesse ai miei alunni. Prima di chiedere che cosa gli dovevo insegnare, mi sono chiesto che cosa gli piaceva, e la risposta è stata che non gli piacevano poi cose molto diverse da quelle che piacevano a me. Ecco, facciamo finta che io e Alberto siamo dei suoi studenti piuttosto che dei suoi insegnanti, dei suoi studenti, e cosa ci direbbe? Dunque, allora, intanto prima di dirvi qualcosa preferirei ascoltarvi, nel senso cercare di capire cosa fate al pomeriggio, quali sono le vostre trasmissioni radio preferiti, che siti andate a vedere su internet, cosa guardate alla TV, perché se riesco a capire che cosa vi piace, forse in qualche modo riuscirò a farvi piacere anche le cose che piacciono a me. Però, professor Matteo De Benedittis, io sfrucugliando nel suo libro mi sono reso conto che lei però ha fatto una selezione molto accurata delle cose che piacciono davvero ai ragazzi, e apro un po' questo dibattito insieme a lei, cioè ci sono cose davvero molto buone, molto alte, letterariamente anche molto interessanti, anche nello stesso mondo del rap per esempio, però ci sono altre cose che oggettivamente ci sembra valgono poco. I suoi studenti ne sono consapevoli? Cioè voi avete provato anche a discutere criticamente insieme di cosa rende davvero alto ed eventualmente poetico il testo di una canzone, cosa invece lo appiattisce perché lo rende simile a tutto il resto? Allora, ma sì, io direi che innanzitutto la cosa che mi preme è che i miei studenti capiscano che le figure retoriche, la metrica, la poesia è dappertutto, quindi anche nelle cose che così basse, banali o più inflazionate. Mi faccia un esempio, professore, perché io sono un po' tosta, bisogna... mi faccia un esempio semplice, così capisco anch'io. Un esempio comunissimo: chiamare il proprio amato, la propria amata, amore, tesoro, o parlare di cuore, non sono altro che figure retoriche. Se io chiamo mia moglie o la mia fidanzata o il mio fidanzato tesoro, sto facendo una metafora, molto semplicemente. Se io lo chiamo amore, sto facendo una metonimia. E capire queste cose qua, ecco, questa forse è la figura retorica più banale e più forse diffusa del mondo, ma se uno studente inizia a capire che è circondato da, usa tutti i giorni delle figure retoriche, ecco, dopo riusciremo a capire anche quelle più rare, più preziose. Lei è un genio, professore, mi piace un sacco, tornerei, le manderei le mie figlie anche Alberto Pellai a scuola da lei. Allora, professore, lei ci diceva che una volta che ci accorgiamo che parafrasi, metafore, metrica non sono poi così lontano da noi, e dai, soprattutto dai nostri ragazzi, è più facile avvicinarsi. Sì, sì, certo, se uno impara a conoscere le figure retoriche più normali che lo circondano tutti i giorni, quelle che ci sono nelle pubblicità, ad esempio, riuscirà poi, io spero, credo, ad apprezzare poi anche quelle figure retoriche, quella letterarietà molto più alta, chiaramente, un po' perché può fare il confronto, no? Aiutato dall'insegnante, e un po' perché ha già quegli strumenti acquisiti sulle cose semplici per capire anche le cose più complesse, chiaramente. Alberto. Allora, sì, Matteo, allora io farei così, farei ascoltare come tu racconti la metrica di nuovo in un piccolo brano del tuo libro, e poi voglio capire perché l'anno scorso sei finito su tutti i giornali a causa di una sfida rap con un tuo studente. Cominciamo a ascoltare il tuo brano. Il battito del cuore del tuo amoroso e il respiro della tua amorosa. La luna e il nuovo colore delle foglie. La discoteca e il conservatorio. La messa e i cori da stadio. Il basket e la breakdance. Gli orari degli aerei e la catena della bicicletta. Il fuoco e il mare. La tovaglia e le piume del pappagallo. I videogiochi e gli innamoramenti. Il basso e la chitarra. La canzone che ti fa sognare e quella che detesti. Gli scacchi e i pistoni. Gli speculatori e le nuvole. Il profumo del pane, il calendario degli scout. Tutto ha un ritmo, tutto è ritmo. E il ritmo della poesia è la metrica, che ci piaccia o meno. Ma a noi ci piace, come dicono i bambini. Ci piace molto e vogliamo capire cos'è stata questa sfida rap. Tra l'altro, da quanto abbiamo letto, ha vinto lo studente, non il professore, è così? Sì, è proprio così. Infatti. Vabbè, ma Alberto dice subito alla fine. Lei poteva giocarsi almeno, vabbè, un altro finale. Ma comunque, andiamo. Allora, che succede? No, ma non mi vergogno assolutamente di questa sconfitta, perché quando un allievo in qualche modo batte il professore, credo che sia sempre una vittoria prima di tutto per il professore, anche se non sembra. E poi è stata un'esperienza molto bella, perché appunto, come dicevamo prima, il rap è forse il genere che, dando più importanza al testo che non alla musica, farcisce i suoi testi di una grandissima abbondanza di figure retoriche. Quindi in un testo, poniamo, di Jovanotti, di Caparezza, degli Articolo 31, si trovano proprio quantitativamente una marea di figure retoriche. E allora, usandoli in classe, uno dei miei ex studenti, che avevo avuto qualche anno prima, mi sfidò, in quanto lui rapper praticante, mi sfidò appunto in questa gara. Chiaramente tutta la scuola accorse fuori dall'orario di lezione. Bello! E poi? E ci fu questa gara che appunto potete visionare, anche se il volume non è un granché, su YouTube, ma lui, essendo ben più allenato di me, chiaramente vinse, ma mi fece molto piacere lo stesso combattere, perché era fin da quando io ero alle superiori che speravo di fare una cosa così, poi ero timido, quindi alle superiori non lo facevo, invece essendo dalla parte del prof ho trovato più il coraggio ed è stata un'esperienza molto bella. Senta, prof, questa è una seconda occasione. Questa casa non è un albergo, facci come vuoi. Eccoci, siamo tornati insieme, Alberto, ci siamo lasciati dando a Matteo una seconda chance. Sono davvero curioso di vedere come se la cava. Però prima io direi che possiamo presentare un ospite che saprà cantargliele a Matteo. È il professor Giuseppe Castrillo, che è preside del complesso scolastico di Piacenza. Un complesso che riunisce, pensate, ben tre scuole diverse. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno. Allora, signor preside, lei è pronto? Sì, mettiamo subito al lavoro il nostro professore, vediamo come se la cava. Via col rap. Allora, bene, pronti? Sentite la base? Io, sì, sto prof MC, sta sul rit con Steam qui, sta PB che segni il trick, Dragon Ball GT, siamo tutti qui, è una rima omofona, la classe resta afona, tu attenzione poni, per insegnare Dante io uso le canzoni, e Giovanotti ne fa mille citazioni, amo il canulla, amato mar, perdona porco cane, registro sul registro e sopra tutte le lavagne di questa città, Caparezza insegna la metafora, lo insegno alle mie alunne, la droga e lo sballo hanno in comune il tunnel, prendi appunti per non prendere due, per l'antitesi di chiamo Ligabue, in vivo morto X, scrivi ciò che dice questo prof MC, poi senti la poesia nei diversi sensi della sinestesia, De André, Dolce Nere, Negramaro, alzate quelle mani se non è abbastanza chiaro, lezione sulla metrica da Pezzali Max, personificazione la Maria cantata da J-Ax, per imparare meglio in cattedra ci sono le storie tese d'Elio, la paronomase col fantasma formaggino, la ripetizione con forza panino, premi il tasto, ascolta Vasco, impara il paragone d'Alba Chiara, è come la metafora, ma prima metti il come, e poi permettono l'iperboli negrita, basta solo il titolo di Gioia Infinita, prova la parafrasi di Didi Davvero, il mio saluto è nell'anastrofe degli assoluto zero. Mamma mia. Professore, ma preside, cosa ne dice lei? Io dico che è travolgente ed entusiasmante questa lirica che ha scritto De Benedictis, veramente travolgente, e credo che metta insieme due elementi importanti, sì. La struttura ritmatica del verso, dalla quale non si può prescindere, e la psicomotricità, perché leggere in questo modo una poesia o recitarla così significa mettere in gioco tutto il corpo, e quindi contemporaneamente ci si cimenta con discipline diverse, con la poesia, con la musica, ma anche con le scienze motorie. Veramente interessante, forse potrebbe essere un antidoto ottimo per curare certe intemperanze dei ragazzi. E professor Castrillo, a proposito di certe intemperanze dei ragazzi, noi l'abbiamo chiamata perché anche lei è finito sui giornali con la sua scuola, perché ha inventato un nuovo metodo antibullismo che ha fatto molto molto discutere. Ce lo vuole raccontare? Sì, guardi, il mio metodo è nato da un'esperienza che ho fatto venendo a Piacenza. Io ho quattro scuole e ho una palazzina, dalla quale in questo momento sto parlando con voi, che è lontana dalle scuole qualche chilometro. Quindi il preside non sempre si vede, a volte quasi mai, perché imbratta soltanto le carte. Sì. Allora io ho pensato di presentarmi a scuola e di intervenire alla prima minaccia, alla prima intemperanza, alla prima piccola larvata violenza, e di castigare, tra virgolette, i miei alunni, anche con una punizione corporale, facendoli leggere all'impiedi per circa un'ora una pagina di Pinocchio o di Cuore. Una punizione corporale dei tempi andati, certo. Sicuramente la punizione consiste nel farli stare in piedi a leggere, ma non è solo questo, perché la lettura poi prelude ad un racconto del proprio vissuto. Dal brano si passa alla loro vita, alla loro famiglia, al motivo del litigio, al motivo dell'intemperanza, e intanto si ricostruisce attraverso la lettura un rapporto tra il ragazzo di oggi che viene a scuola e il ragazzo di più di un secolo fa al libro cuore, oppure tra l'intemperanza del momento e quella di un burattino come Pinocchio. Perché lei ha scelto il libro cuore e Pinocchio, vero? Sì. E pensa di allargare anche un po' la rosa dei libri? O si concentrerà su questi? No, guardi, io avevo anche pensato ad altri libri, per esempio alcuni di Calvino. Sì. Il sentiero dei nidi di ragno, per esempio. Qualche brano di Marco Valdo, Le città invisibili, ma anche Stevenson, L'isola del tesoro, anche altri libri della nostra produzione letteraria. Però ha iniziato con Pinocchio e cuore. E sa perché? Sì, perché questo volevo saperlo. A scuola con molti ragazzi extracomunitari. Sì. Molti di loro hanno fatto un viaggio dalla loro terra in Italia. Nel libro Cuore c'è un racconto bellissimo dagli Appennini alle Ande in cui un ragazzo italiano va a cercare la madre in Argentina. Certo, mi ricordo bene. Quindi c'è un grande legame. L'ho fatto anche per un altro motivo. Sì. Il libro Cuore, che nasce nel settentrione d'Italia, è pensato anche guardando a grandi temi, la patria, la famiglia, il rispetto degli altri. Alcuni racconti hanno ancora la loro valenza formativa. Io lo so che se li mettiamo in bocca a De Benedictis e al Sorep, sembrano alcuni racconti una straordinaria, incandescente, lavica filastrocca, ma questo è ancora più bello. Se li leggiamo secondo la formula REP, hanno una grande forza perché poi residuano alcuni valori, alcuni concetti, alcune idee. Signor Preside, bisognerebbe in piedi o sedute o prima di addormentarsi riprendere in mano questi libri. Io non penso solo ai nostri ragazzi, ma anche a noi genitori. E intanto il nostro professore REP... Posso interrompere un attimo? Certo. Io ce l'ho sul mio comodino, libro cuore, e ogni sera me ne leggo un capitolo. Alberto, lo faccio da sempre. Alberto, lo legge ai tuoi bambini? Il libro Guarda, devo dire che i miei bambini hanno letto in lungo e in largo Pinocchio in due versioni diverse, hanno visto tutto quello anche su schermo che è stato prodotto intorno a Pinocchio, anche il Pinocchio con Nino Manfredi. E mi sembra così interessante che vorrei chiedere a questo preside come hanno reagito i suoi studenti e se qualche genitore si è lamentato della sua idea di una punizione corporale fatta di letture in piedi di testi classici. Guardi, io ho avuto il consenso dei genitori e anche i genitori dei miei alunni mi hanno testimoniato un attestato di stima, devo dire, per questa iniziativa, forse perché alcuni di loro ricordano di aver letto da ragazzini Cuore e Pinocchio, ma ha fatto scalpore anche tra gli alunni. Qualcuno mi ha chiesto addirittura di avere il regalo Cuore o Pinocchio. Ho scoperto che qualcuno poi fa il prepotentello per ritornare dal preside. No! Allora, io penso... Quattro chiacchiere con lui. Adesso non le posso dire l'etnia di questi ragazzi, da dove vengono. Ma c'è uno che mi ha sfidato, non con il rap. È un ragazzo un po' particolare, usiamo questo termine generico, non dice nulla o lascia trapelare tante cose. Ha costruito una piccola abat-jour con le sue mani. Sì. E a ogni costo ha voluto farmela vedere. Diceva alla vicaria, alla professoressa Tixi: ma quando viene il preside? Io ho costruito uno strumento, glielo devo far vedere. E poi ha fatto perfino il progetto di come ha costruito lo strumento. E tutto è nato da questa sfida a leggere Pinocchio, a passare allo studio del preside, a farsi rimproverare, a dire le proprie ragioni, a sentirsi dire: ma io non voglio sapere di chi è la colpa, a me non interessa, io voglio che a scuola si studi e adesso leggi. E con questo tono un po' imperioso ho cercato di vendere per buono il mio metodo, che era poi soltanto una forma per interloquire con i miei alunni, per capirli, per cogliere che cosa c'è dentro il loro mondo. Professor De Benedictis, insomma, il preside ha fatto centro, come ha fatto lei con i suoi ragazzi, due storie che sembrano per certi versi lontani, ma che poi hanno un denominatore comune. Avete cercato il contatto con i ragazzi, avete cercato di superare magari quel diaframma che spesso si crea tra ragazzi e insegnanti. Ma io infatti ero molto contento di ascoltare le parole del preside, perché mi ritrovavo praticamente in tutto quello che ha detto, soprattutto nel fatto di rispondere alle sfide degli studenti. Ogni studente, sia quello bravo, sia quello che fa confusione o dà dei problemi, sta sfidando in qualche modo il professore, e alle sfide degli studenti bisogna rispondere sempre. E se in mezzo a questa risposta ci inseriamo l'arte, la letteratura, la poesia, beh, insomma, credo che sia una delle migliori risposte che si possano dare agli studenti, perché oltre a essere così educative, sono piacevoli. Questo è importante, cioè che un ragazzo a scuola stia bene, se sta bene, se viene a scuola volentieri per quanto sia possibile, beh, tutto l'apprendimento e le relazioni con gli altri migliorano. Matteo, io immagino che ci sia la fila di studenti fuori dalla porta della tua aula che vogliono tutti essere iscritti alla sezione in cui insegni tu. Però mi domando, gli altri insegnanti di lettere che usano magari metodi più tradizionali, come ti guardano, come ti vedono? Vogliono imparare un po' dal tuo metodo? Sono invidiosi oppure dicono guarda te quel ragazzino, perché poi 27 anni cosa si crede di fare, perché solo perché è più giovane di noi? Ma io Matteo, signor, no, Matteo, ormai la chiamavo anch'io Matteo. Professore, mi raccomando, attento, perché l'avverto che Alberto Pellai fa sempre degli strani trabocchetti, quindi no, ma occhio. Io sono abbastanza tranquillo, nel senso che chi ha delle critiche, io gli faccio un appello pubblico: avete delle critiche, vi prego fatemele, ditemele, perché fino adesso appunto dei miei colleghi mi hanno fatto dei complimenti, mi hanno così, hanno commentato il libro eccetera, ma una vera e propria critica ancora la sto aspettando con molta ansia, perché chiedo a chi ha delle critiche da fare di avere il coraggio, così di prendere il coraggio a due mani e di scrivermi una mail. Allora intanto chiediamo al nostro preside, il professor Giuseppe Castrillo, di prendere il libro di Matteo De Benedittis e di leggerlo, e poi magari dalle critiche costruttive magari uscirà una collaborazione, perché io vi vedrei bene a lavorare insieme. E la ringrazio. Io mi sono già segnato nome e cognome: Matteo De Benedictis, canta mio DJ, mi manca la casa editrice. Manca la casa editrice, che la diciamo subito. È Kowalski. Kowalski. Signor Preside, buongiorno, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito e soprattutto per avermi fatto conoscere un giovane docente di lingua italiana che sarà, io credo, molto invidiato. Io ho insegnato italiano fino a qualche mese fa e veramente sono contento di non essere suo collega, altrimenti sarei eroso da un'invidia. Che bel complimento al professor De Benedittis. Grazie professore anche a lei. Grazie, ringrazio di cuore il preside Castrillo, che si è veramente dimostrato un preside lungimirante, come ce n'è bisogno e ce ne sono fortunatamente tanti dappertutto. Matteo De Benedittis, ti mandiamo in tournée nella scuola del professor Castrillo con il tuo libro. Sì, perché noi ormai facciamo quelli che mandano anche in tournée gli altri. Alberto si è montato la testa dopo queste canzoni. Alberto, invece noi proprio in tournée non ci andiamo. Noi rimaniamo qui e coltiviamo la nostra creatività. Se tu vuoi sapere quanto creativo sono io, sappi che io mi considero molto molto creativo. Questa casa non è un albergo. Ci tornati insieme, Alberto, l'hai anticipato, parliamo di creatività. Tu hai detto che ti senti anche molto molto molto creativo, anche perché di? Perché lavoro insieme a te, che sei una donna dalla straordinaria creatività. Senti, però, a parte di creatività, che perché chi si loda si imbroda, direi presentiamo gli ospiti. Anzi no, partiamo prima dalla lettera che ci ha dato lo spunto per arrivare poi al tema di cui vogliamo parlare. Che dici? Sono d'accordo. Mi sembri ormai esausto. Sono d'accordo, come per dire o così o così. Andiamo. Lo scorso weekend ho avuto la possibilità di far vivere a mio figlio di 9 anni un'esperienza davvero unica. Al MUBA di Milano c'è un piccolo grande evento per bambini che si chiama Il Mercato delle Storie. Ogni due ore gruppi di 30-50 bambini possono entrare in una specie di mercatino dove si vendono paesaggi, personaggi, odori e immagini che una volta comprati, con soldi di carta, devono essere poi assemblati in una storia inventata dai piccoli narratori. Ogni bambino si alza in piedi e racconta la sua favola a tutti gli altri. Si ride, ci si commuove, si vive di magia. Un'esperienza gioco meravigliosa e di facilissima realizzazione. Con un po' di carta e di stoffa si vivono 2 ore di grande creatività. Creatività, appunto. Ce n'è sempre meno nei nostri figli. Perché con il vostro programma non ci regalate un piccolo corso di creatività? Ci date qualche consiglio per fare cose simili al mercato delle storie tra le quattro pareti di casa nostra? Alberto, come potevamo rinunciare a suggerire qualche cosa? Un invito a nozze, quello della nostra ascoltatrice? Sono completamente, guarda, sottoscrivo ogni singola parola di questa mail. Tra l'altro ho portato anch'io i miei figli a questo mercato delle storie e devo dire mi si sono accese le stesse domande, gli stessi pensieri di questa mamma. A volte basta pochissimo per fare con tuo figlio delle cose straordinarie, molto creative, e devo dire che osservando i bambini alla mostra ho visto però alcuni bambini davvero incapaci di stare dentro un gioco così creativo. Era come se sempre si aspettassero che l'adulto li imboccasse. Sì. Allora, creatività, Alberto, questa diventa un po' la parola d'ordine, la parola chiave della nostra trasmissione, e abbiamo 2 ospiti. Uno è un grande esempio di creatività e un altro invece la creatività, forse creativo anche lui, ce lo dirà, la creatività la studia, la analizza. Alberto, presentiamoli. Allora, io parto da un artista, quindi incarna proprio la creatività per eccellenza, che appena combinato una follia, quella che lui ha chiamato l'ultima follia di Enrico Ruggeri. Buongiorno Enrico. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto spieghiamo cos'è quest'ultima follia, perché è una quantità infinita di nuova musica, 3 diversi CD, sei l'unico che fa uscire 3 CD, sì, tutti con materiali mai presentati prima. Sì, non ho notizie della Thailandia, delle Filippine, ma nel mondo che fa dischi sicuramente sono l'unico. Sì, perché è un album insomma che testimonia un anno di lavoro particolare, variegato, articolato su vari fronti, senza fare quello che si usa fare spesso, cioè riproporre le canzoni di successo, cosa che un giorno farò anch'io, ma non in questo momento. E visto che sei un uomo dalla creatività prorompente, ti useremo come creativo, ma anche come padre, perché tra l'altro c'è pure un segreto dentro questo CD, ma lo sveleremo più avanti. No, diciamolo subito, scusa, segreto, un bellissimo segreto, un po' un segreto di Pulcinella, ma con te, Enrico, c'è anche tuo figlio, Pico. Sì, tra gli altri, perché uno dei 3 album... è un rifacimento dell'album dell'anno scorso, che è Rock Show, tutto fatto con ospiti. La maggior parte degli ospiti sono stranieri, sono stati trovati in rete, su MySpace, eccetera, però naturalmente ci sono anche ospiti più vicini, qualche amico cantautore tipo Davide Van der Sfross, mia moglie Andrea Miró, ma addirittura in questo caso c'è il debutto di mio figlio Pico. È stato il più difficile di tutti da contattare, perché aveva un sacco di remore, non voleva fare il solito intervento del figlio del cantautore, perché la sua musica è diversa dalla mia, perché ho dovuto gli ho dovuto rifare 3 volte la base, perché non era di suo gradimento. Insomma, è stato l'osso più duro di tutti. Un tipo tosto. Sì. Il secondo ospite, che prenderà spunto appunto dall'ultima follia, analizzerà un po' la creatività di Enrico Ruggeri, ma soprattutto ci darà consigli per andare a scoprire, a potenziare quella che c'è in ciascuno di noi. Abbiamo il professor Giampaolo Perna, psichiatra, direttore associato del Master Internazionale sulle Neuroscienze Emotive dell'Università di Maastricht. Buongiorno professore. Ciao Nicoletta e buongiorno a tutti. Ciao anche te Alberto, e piacere di sentire Enrico. Allora, Enrico può darti del tu il professor Perna, perché il professor Perna dà del tu a tutti e quindi è giusto che dia del tu anche a te. Allora professore, l'ultima follia di Enrico, insomma, la creatività non conosce età. Beh, la creatività non conosce età, è assolutamente vero. È anche vero che la fase di massima potenza è in gioventù, sono i bambini, perché i bambini, proprio per forma mentale, hanno una mente molto più plastica, quindi molto più ricettiva dal mondo esterno. Il vantaggio è rimanere giovani, quindi rimanere continuamente esposti a nuovi stimoli, proprio per non perdere questa creatività. Quindi riuscire a mantenerla col passare del tempo dipende molto da noi e da quanto siamo disposti a metterci in gioco. Quindi si educano i bambini a essere creativi, professor Perna. Alberto, tu che cosa fai con i tuoi? Ma io sono convinto che la creatività, per essere davvero educata, potenziata, indirizzata, coltivata, ha bisogno di tempi, ha bisogno di spazi, e poi appunto questi tempi e questi spazi vanno in qualche modo riempiti con stimoli adeguati a quella che è l'età del bambino, l'età di tuo figlio. Sarebbe interessante, per esempio, chiedere Enrico, tutta questa creatività che non è solo musicale, perché tra l'altro lui ha scritto libri, poi lavora in TV, fa l'autore. Insomma, si capisce che Enrico ci piace. Enrico? Beh sì, intanto mi inserisco un attimo nel discorso dei bambini, perché io oltre a Pico ho un bambino di 3 anni e mezzo che va per i 4 e nel mio caso sono riuscito a capovolgere il solito rito papà raccontami una storia, sì, e piano piano è andata a finire che adesso me le racconta lui. Prima di dormire lui mi racconta una storia. Professor Perna. Ma io direi che è un'idea eccellente, anche perché costringe il bambino esattamente a cercare, a trovare, a inventarsi un mondo diverso, a legarlo con la realtà, e quindi credo che sia un'ottima idea, insomma, se tutti prendessero questo faticherebbero di meno i genitori e stimolerebbero molto più il bambino, quindi complimenti, è una bellissima idea pratica. Vogliamo dare delle indicazioni ai nostri amici da casa per stimolare, educare, coltivare quella creatività che sonnecchia nei loro figli, oppure perché no, è sveglissima e va comunque alimentata? Allora, direi per i figli più piccoli, davvero il lavoro del genitore, il mestiere di genitore che vuole crescere un figlio creativo è presidiare un po' i tempi e gli spazi in casa per poter essere creativi, che vuole dire 30 minuti senza poter accendere niente, dove però hai a disposizione per esempio delle marionette oppure dei fogli di carta bianca con pennarelli, pastelli, tempere, acquarelli, quello che vuoi tu, un piccolo spazio, perfetto, si vede che hai esperienza, un piccolo spazio dove si può sporcare, ci si può sporcare e si può pasticciare con cose che fanno rumore. Non lo so, in casa nostra purtroppo da una parte, per fortuna per i miei figli, è entrata comunque anche una batteria, una chitarra giocattolo. Ecco, questo è il genere di cose che effettivamente tocca la creatività di un figlio. Per i più grandi direi che stimoli e sorprese sono la cosa migliore. Per esempio, mettere davvero dentro al CD che ascoltiamo in macchina, al CD player, uno dei 3 CD di questa ultima follia di Enrico è davvero stimolante. Uno è pura musica, un altro è un mondo di esplorazione in canzoni che sono cover, e fare in qualche modo ascoltare l'inusuale. Ne abbiamo parlato altre volte in trasmissione, regalare un audiobook, regalare uno strumento musicale a un figlio, anche se non ha mai provato a suonarlo, può essere un'esperienza che tira fuori da lui l'artista o il musicista che c'è. Queste sono secondo me alcune idee, quindi spazi, tempi, strumenti e possibilità. E forse dare anche noi, ma ditemelo voi come genitori, un po' l'esempio, anche con il rischio di fallire, perché la creatività, se ci ha detto il professor Perna, tu l'hai ripetuto, anche Enrico, è sperimentare, tante volte poi si può anche fare un flop, ma per questo non dobbiamo in qualche modo tenerci tutto dentro e non avere più il piacere di rischiare. E posso dire anche, Enrico ce l'ha dato indirettamente tramite le sue parole, molta pazienza per avere con sé un figlio che incide la sua canzone, cambia 2 volte la base musicale e ci lavora intorno. Secondo me questa ci vuole tempo e pazienza per crescere un figlio creativo. Professore, tempo e pazienza, aggiungo una parola a lei e poi mi piacerebbe dire una nota, più note Enrico, ma facciamogli dire invece solo una parola. Professor Perna. La parola finale, che a me piace molto peraltro, è libertà, cioè bisogna lasciare un po' di libertà ai nostri figli, libertà di sperimentare, quindi osservare, evitare i grossi pericoli, ma giocare troppo in sicurezza vuol dire limitare le possibilità del nostro figlio. Grazie professor Perna per essere stato con noi, una parola su cui riflettere, Enrico. Beh, intanto è stato molto piacevole tutto questo. Aggiungo l'ultimo postulato, che potrebbe essere: la creatività è qualcosa che si fa innanzitutto per se stessi. Noi siamo troppo abituati in questo momento a chiedere risultati alla vita, a primeggiare, a combattere, a competere. Ecco, questo può succedere anche dopo ed è giusto e inevitabile che accada, però la creatività di per sé deve essere la voglia di esprimere qualcosa che abbiamo dentro. dentro e vogliamo comunicare a noi. Poi naturalmente se qualcuno arriverà anche agli altri, le cose che facciamo è meraviglioso. Enrico, grazie, è sempre bello averti con noi. È un piacere anche per me. Buona giornata. E buona giornata grazie. Anche al nostro professor Perna. Professore, grazie, buona grazie giornata. Grazie a voi. Alberto, anche oggi è volata, abbiamo terminato. Mm. Volevo dire agli ascoltatori che loro non lo sanno, ma tu sei molto creativa anche in cucina. Loro forse questa cosa non se la immaginano. Mi piace, grazie. Sei carino nel 2010, lo sei sempre. Ma devo dire che all'inizio dell'anno un po' di complimenti aiutano. Intanto noi abbiamo iniziato questa avventura del 2010. Alberto, al prossimo sabato. Grazie, buona giornata, buon 2010. Da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai. Questa